Friuli nel mondo, 80ª trasmissione dedicata agli emigrati. Odore di sagre. Altri tempi, meno dinamici ma più sereni di questi, quando i nostri nonni si abbandonavano al ritmo festoso di balli friulani, dalle movenze semplici e garbate e da un avvincente effetto scenografico. Queste danze entrarono d'inverno nei focolari, conquistarono tutti i paesi del Friuli in carnevale e nelle sagre respirarono tra le erbe e i fiori sui rustici brears. Thank you. Motivi però, cari amici lontani, che conoscono anche i palcoscenici di moltissime città italiane e straniere, ad opera di gruppi folcloristici di Gorizia, di Udine, di Aviano, di Maniago, di Tarcento, di Pontebba, di Resia, di Capriva, di Lucinico, per citare i maggiori, ove riscossero le simpatie e gli applausi dei più disparati ed esigenti pubblici. Balli di campagna, quindi balli del vecchio Friuli, odore di polenta e frico, di sagra paesana, profumo e scintillio di vino, in una parola sola, cuori in pace. Ecco il Friuli dei vostri vecchi, il Friuli della vostra infanzia, il Friuli che pur nel progresso vorremmo fosse sempre così, lieto, semplice e sereno. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 80ª trasmissione dedicata agli emigrati a cura di Ermete Pelizzari, complesso di Tonin Kuberli.